La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Tra i diritti delle donne ritengo molto importante tutelare quello all'inserimento nel mercato del lavoro, senza dimenticare il parallelo diritto alla maternità e alla cura dei figli. È a questo scopo che sento la necessità di individuare concrete soluzioni finalizzate ad una maggiore conciliazione dei tempi di cura e di lavoro. Il Ministero per le Pari Opportunità sta lavorando insieme al Ministero del Lavoro, al Sottosegretariato alla Famiglia e al Ministero dell'Economia ad una nuova disciplina sulla conciliazione che possa favorire le donne che lavorano, non sempre in grado di sostenere la libera scelta di essere madri e lavoratrici al tempo stesso. Oggi nel nostro Paese avere un figlio è divenuto quasi un atto di eroismo per l'insufficienza di quei servizi che aiutano le donne a crescere i propri figli, permettendo loro contemporaneamente di trovare una gratificazione personale e anche economica nel proprio lavoro. Buongiorno, abbiamo sentito il ministro delle pari opportunità, anzi la ministra delle pari opportunità Mara Carfagna, che ha relazionato in audizione Affari Costituzionali della Camera questa settimana proprio sulle linee programmatiche del suo ministero e ha detto: oggi fare un figlio per una donna è un atto di eroismo, e per un uomo noi ci chiediamo qui alla quota rosa, perché molto spesso i nostri radioascoltatori maschi ci scrivono dicendo che noi siamo assolutamente parziali, il che è vero, e siamo assolutamente a favore delle donne, il che è vero, però abbiamo anche una coscienza e oggi ci vogliamo occupare dalla parte dei padri, vogliamo vedere che cosa succede dalla parte dei padri, perché nelle difficoltà dei padri separati vedere come si possono conciliare queste difficoltà con quelle delle madri separate, avendo sempre un occhio di riguardo rispetto alle donne, però capendo anche che molto spesso gli uomini separati con dei figli non ce la fanno ad arrivare a fine mese. Per parlare di questo problema abbiamo con noi Marco Cavina, storico, autore di Padre Spodestato, l'autorità paterna dall'antichità ad oggi, edizioni La Terza, l'onorevole Rocco Girlanda della PDL, super papà quarantenne, 5 figli, membro della Commissione Bilancio e della Commissione Affari Costituzionali. Ospitiamo quindi particolarmente un uomo deputato, perché noi generalmente solo donne, proprio perché appunto un super papà con 5 figli, poi ci spiegherà come fa lei e sua moglie. L'onorevole Maria Luisa Agnecchi del PD, ex assessore di Bolzano, dove ha appoggiato l'iniziativa di un'associazione per creare una casa albergo per i padri separati, membro della Commissione Lavoro della Camera. Laura Calafà, giurista, docente di diritto del lavoro all'Università di Verona, autrice di Paternità e Lavoro. Iniziamo da Marco Cavina, storico, autore di Padre Spodestato, autorità paterna dall'antichità ad oggi, edizione La Terza. Insomma, la figura del padre com'è cambiata nella storia? Ma dunque, innanzitutto vorrei premettere che io sono padre di 3 figlie, quindi anch'io la mia anche parte. Lei la fa la... E sua moglie lavora? Sì, mia moglie lavora. Quindi vi dovete barcamenare? Io insegno all'università, mia moglie fa l'avvocato, insomma tutto sommato siamo in una posizione discreta, ma comunque con problemi, ecco, per gestire una famiglia di questo tipo oggi. Ma lei è un padre moderno che va a prendere i figli a scuola, sì, che li fa fare compiti? Assolutamente. A noi piacciono questi padri moderni qui alla Quota Rosa. Io cucino anche. Ah, cucina. Ah, perfetto, insomma, non è che ricade solo su sua moglie la cura dei figli. No, assolutamente, assolutamente. Allora, lei ci sta già dicendo come è cambiata un pochino la figura del padre. Nel suo libro di che cosa si parla? Ecco, dunque, a un passant vorrei dire che una ventina d'anni fa uscì un libro di un sociologo della famiglia, la cui dedica era concepita in questi termini: dedico questo libro a mio padre, a cui davo del voi, e a mio figlio che mi chiama Pippo. Questo per indicare, no, questo cambiamento epocale che è avvenuto tutto sommato in un tempo che per la storia è relativamente breve. Diciamo che in generale, proprio andando a larghissime spanne, dall'antichità attraverso il Medioevo fino a tutto l'antico regime, tra accelerazioni, decelerazioni, diversità geografiche, storiche, possiamo comunque individuare un preciso filo rosso in questo campo, cioè la fiducia della società e dello Stato nel ruolo paterno all'interno della famiglia. La famiglia è anzitutto una istituzione munita di interessi suoi propri, è come un animale che esiste al di là degli organi che lo compongono, i componenti sono membri, non individui, la famiglia è un organo, non è una somma di individui, quindi ci sono istituti che garantiscono la famiglia più che non gli interessi dei singoli componenti, pensiamo al divorzio, alla possibilità di sciogliere il matrimonio, pensiamo alla patria potestà perpetua, perché la patria potestà fino alla fine del Settecento, nella tradizione europea, dura, salvo volontà paterna, emancipazione volontaria, finché vive il padre. Ecco, questa configurazione, diciamo in senso lato patriarcale, declinata variamente nel corso dei secoli, poi in un periodo, dicevo, relativamente breve nei confronti dei 2000 secoli del patriarcato, cioè circa 200 anni, viene meno. E questa demolizione nasce molto rapidamente in due tappe. La prima, nel Settecento, nasce la diffidenza nei confronti dei padri, si crea una mala fama dei padri, mentre prima il padre è una figura quasi mistica, si scomoda San Giuseppe o appunto riferimenti religiosi di questo tipo. Successivamente, invece, specie sotto la penna degli illuministi, i padri iniziano ad essere configurati come dei tiranni, sono premesse già nell'umanesimo. Diciamo che quindi sono gli illuministi che fanno… L'illuminismo è un turning point decisivo sicuramente, è perché dà voce ad una certa etica individualista essenzialmente, all'interno della quale la famiglia in fondo si deve reggere su una sorta di contratto, in cui, come in ogni contratto, ci devono essere tendenzialmente pari diritti e pari doveri fra tutti i membri. Ma invece la seconda tappa qual è? La seconda tappa, quindi, queste sono le premesse culturali, e poi nella seconda tappa, dalla Rivoluzione francese in poi, diciamo che questa diffidenza si concretizza in leggi. Leggi che, come dire, pezzo dopo pezzo scompongono il potere paterno, lo disgregano. Non dimentichiamo che ci sono tempi diversi nella storia, no? La Rivoluzione francese crea una società borghese, ma una società borghese che ha istituzioni borghesi, ma che ha ancora un'etica per tutto l'Ottocento, che è sostanzialmente d'antico regime aristocratica. Questa etica, ovviamente, però, all'interno di questa società borghese si viene lentamente disgregando, e questo appare anche nelle leggi, la famiglia diventa più individualista, il potere del padre si disgrega, il potere della madre, che si affaccia anche quello, no, nell'Ottocento con la parificazione dei genitori, però arriva tardi in un certo modo, no, perché arriva quando ormai i genitori tendono ad avere un potere minore all'interno della famiglia, e a tutto vantaggio di quello che è il terzo incomodo, per dir così, che è lo Stato. Alla fine, lei dice nel suo libro, la patria potestà è politicamente scorretta. La patria potestà diventa nello Stato novecentesco un termine politicamente scorretto, sgarbato, sgradevole. Evoca appunto l'idea del padre tiranno, del padre che vieta al figlio di sposare la donna che ama, al padre che ricatta il figlio dicendo ti diseredo se non continui a fare il lavoro che faccio io, e appunto evoca, diciamo, quadri immaginari di sostanzialmente di questo tipo. Quindi lei dice a un certo punto il padre padrone dei viceré, il padre padrone che imponeva, come denuncia Molière nelle Col de Femme, di sposare un ottuagenario alla figlia solo perché sposava un uomo più ricco, questo padre alla fine non esiste più, è sì, politicamente scorretto, meno male, diciamo noi. Ci può essere anche il padre che vieta la storia ci fa delle sorprese gradevoli, però. Ci può essere il padre che vieta la figlia di sposare il tossicodipendente. Questo padre ci piace di più, però. Vede, cioè, ci sono i vari lati della questione, quindi non... E indubbiamente tenga presente poi anche tutta l'evoluzione della cultura moderna, che parte da una diffidenza nei confronti della tradizione, dell'autorità e della famiglia, tre diffidenze che unite insieme picconano alla base l'idea del ruolo paterno, con tutti gli aspetti negativi. Insomma, è una sua tesi, quindi il padre spodestato, l'autorità paterna dall'antichità ad oggi. La quota rosa. E torniamo a parlare dei nuovi papà, c'è chi sopravvive con 400 euro al mese e chi è costretto a mangiare alla mensa dei poveri. Sono i padri separati che, pur avendo un lavoro e un reddito, sfiorano la miseria, trascinati dalla fine del matrimonio agli ultimi posti della scala sociale. Un'inchiesta appunto di pochi giorni fa di Repubblica. L'abitazione familiare viene assegnata alla madre nel 94,5% dei casi. Un evento del genere porta all'impoverimento generale della famiglia. Una situazione che noi qui alla Quota Rosa vogliamo denunciare. Onorevole Rocco Girlanda, PDL, super papà, quarantenne, 5 figli, membro della Commissione Bilancio e della Commissione Affari Sociali. Lei mi diceva prima di andare in onda, anche sua moglie lavora? Anche mia moglie lavora, per forza, però un attimo volevo raccontare un pochino com'è la storia. A 20 anni mi sposo, nasce il primo figlio, ovviamente incidente di percorso, poi il secondo, la seconda, poi la terza, poi dopo 6 anni arriva la separazione, mantengo insieme, in accordo con mia moglie, l'affidamento dei figli, quindi tutti con me, e poi arriva la nuova compagna, nuova moglie e altri 2 figli. In questo sono riuscito comunque anche, al tempo facevo l'operaio nella vita, sono riuscito anche a conciliare la questione professionale con grandi sacrifici, arriva pian piano la carriera, dirigente d'azienda, amministratore delegato e oggi deputato. I sacrifici tanti, perché parliamo oggi, i miei figli, la parte grande hanno oltre 20 anni, quindi una situazione affrontata anche 20 anni fa, con grandi sacrifici, ma con io credo che la cosa principale sia quella di dover obbligatoriamente battere, lo dico per esperienza personale, su una questione di tranquillità all'interno di una coppia che fra l'altro decide di divenire a una separazione. Questo per il bene dei figli credo che sia la parte più complessa. Io seguo una marea di amici che hanno trovato delle situazioni di separazione molto più complicate, con le solite guerre dei rosi fra i coniugi, quello lì veramente si crea un dramma. Tutto il resto poi è abbastanza semplice. I papà oggi, immagino, perlomeno con la mia esperienza, non sono più i papà di una volta, bisogna abituarsi a cambiare i pannoloni, biberon, ciuccio, le storie della sera, conciliandole ove possibile, proprio per quello che ascoltavo prima, con gli impegni di tipo professionale che non possono obbligatoriamente essere lasciati in secondo piano, perché ne va ovviamente della sopravvivenza della famiglia. Credo un'altra cosa che differenzia molto le realtà è il fatto di dove uno vive fisicamente. Io ho la fortuna, sfortuna, in questo caso fortuna, di venire da una città splendida che è Gubbio, ma è una città di provincia dove comunque tutto quello che riguarda le possibilità di far tenere i bambini dai nonni sono molto più facili magari di una situazione come Roma o come Milano, dove si aggiungono anche tutto questo genere di problematiche. Credo che, e lo dico con convinzione, essendo oggi un papà di successo all'interno dei figli, perché sono riuscito a crescere questi 3 figli grandi all'interno, ripeto, di una famiglia di 5 bambini, tranquillamente, hanno la loro vita scolastica, universitaria, uno fra l'altro è già pilota di aerei, quindi con tranquillità e con una sicurezza di fondo basata comunque sulla continua e costante presenza. Ma lei, la interrompo per dire una cosa, lei che ha scelto di essere nel Popolo della Libertà, ha scelto di essere nel Popolo della Libertà perché si identificava in Berlusconi, 5 figli con 2 matrimoni. No? Presidente, è la prima cosa che mi ha detto il Presidente una volta che ci siamo incontrati, cioè c'è questa situazione, ma guardi, io sono nel Popolo della Libertà perché sono profondamente convinto del sistema che porta il Popolo della Libertà come progetto di benessere per una popolazione e per una nazione come l'Italia. Vengo da radici profondamente cattoliche come famiglia di provenienza, sono contro, questa adesso è un'altra cosa che può sembrare una contraddizione, ma invece non lo è, sono anche contro ad esempio la separazione, il divorzio. Questo non significa che uno come me, che poi l'ha vissuto, subito personalmente, non possa avere situazioni o idee o convincimenti diversi. Io però credo che... non voterebbe per una legge che abroga il divorzio? Assolutamente sì. Ah, lei voterebbe per una legge che abroga il divorzio? Assolutamente sì. Convinzione personale che deriva da una profonda radice cattolica. Non è un po' retro questo pensiero, un po' anacronistico? Sì. Mi scusi, perché è chiaro che la mia è stata una risposta provocatoria, allo stesso tempo per rispondere a una domanda immagino di questo tipo. È chiaro che sto parlando di una situazione oggi completamente diversa, la vita si sta sviluppando, la socialità, l'economia, tutte in altre cose. Sono anche firmatario di una legge alla Camera che andrà in discussione in questi giorni, che proprio parla diciamo le coppie di fatto fatta dal centrodestra. È chiaro che bisogna guardare allo sviluppo della società come è quella di oggi, con le problematiche quelle di oggi, con lo sviluppo, inviluppo, che dipende dal lato in cui uno lo guarda. È chiaro che quando uno affronta questi temi, essendo e venendo da una convinzione cattolica, poi deve gioco forza crearsi dei problemi. Uno dei grandi temi, e lo dico tanto per ampliare il discorso, che riguardano la mia esperienza personale, uno dei limiti che vedo nel rapporto con mia moglie è proprio quello di non avere un matrimonio di tipo cattolico. Questa è la situazione. Lei sta parlando però di una questione appunto etica, che ha a che fare con la sua religione, la religione cattolica. Lei è un praticante e quindi giustamente, come uomo divorziato, separato, non può ricevere per esempio la comunione, cioè ci sono, ci sono, ecco, lei, è un grosso limite nello sviluppo, credo, del rapporto con mia moglie, con la mia famiglia e con i miei figli. Ecco, lei allora come cattolico denuncia questo problema, ma insomma come italiano penso che sia favorevole a una legge che permetta a cattolici e non cattolici di divorziare. Ma ci mancherebbe. Ah, ecco, ho detto prima, ho risposto appositamente dicendo è una provocazione. Ecco, meno male che è una provocazione onorevole. Diciamo siamo fuori dai tempi. Ok, allora diamo la parola all'onorevole Maria Luisa Agnecchi, PD, donna, ex assessore di Bolzano, dove ha appoggiato l'iniziativa di un'associazione di creare una casa albergo per i padri separati. Allora, l'ispiratore del provvedimento, perché dice lei, sono i nuovi poveri. Quindi l'esperienza è stata anche un'esperienza legata all'aver fatto la consigliera di parità e al vedere come, partendo dalle donne, allora, visto che comunque questa trasmissione dichiaratamente sta dalla parte delle donne, come normalmente la separazione sia un rischio di povertà per le donne, e noi, oltre al discorso casa albergo per i padri, siamo anche l'unica provincia in Italia che ha istituito l'assegno a copertura degli assegni, del mancato assegno di mantenimento pagato dal coniuge forte, e quindi abbiamo praticamente lavorato sui due filoni: il sostegno alle, in generale, donne nel momento in cui i padri o gli ex mariti non pagano gli assegni, sia per i figli che per la ex moglie, e nello stesso tempo però il filone di sostegno, in termini di sostegno alla paternità, per i padri separati. E quindi, rispetto al sostegno alla paternità, siccome uno dei problemi, proprio perché è stato detto all'inizio della trasmissione, normalmente gli appartamenti vengono lasciati alle donne con i figli, all'interno delle case di edilizia abitativa agevolata, che da noi sono gestiti dall'IPES, abbiamo creato un appartamento in via Alessandria in cui possono vivere il fine settimana o tutta la settimana i padri, e hanno una stanza nella quale c'è tutto il necessario per loro per poter vivere, e la possibilità anche di letti per i figli, un soggiorno grande nel quale in particolare il fine settimana possono portare i figli. L'obbligo è poter ovviamente gestire questa situazione di socialità anche con gli altri padri, e si cerca di garantire la possibilità di alloggio per un anno o due anni, quindi una fase transitoria, per permettere poi loro di trovare un altro alloggio. Oltretutto noi diamo un punteggio privilegiato per uomini e donne che si separano rispetto all'entrare in graduatoria di case dell'edilizia abitativa agevolata. Quanti padri ospitate in questo momento? Sono 6 i padri ospitati all'interno dell'appartamento come situazione fissa, e poi hanno la possibilità il sabato e la domenica di aggiungersi altri padri con appunto l'utilizzo del soggiorno e della cucina comune. Allora, noi speriamo che questa iniziativa dell'onorevole Maria Luisa Gnecchi a Bolzano sia seguita anche in altre province, in altre città d'Italia. La quota rosa. Laura Calafà, giurista, docente di diritto del lavoro all'Università di Verona, autrice di Paternità e Lavoro, edizioni Il Mulino. Noi qui alla quota rosa siamo abituati a parlare, come abbiamo sentito anche il ministro delle pari opportunità in apertura, di maternità e lavoro. Ma c'è un problema paternità e lavoro, dottoressa Calafà? È molto bella la domanda, perché mi consente anche di tornare sull'incipit del volume sul quale abbiamo lavorato. Noi abbiamo cercato su Google paternità e lavoro e non usciva nulla. Usciva un messaggio nel quale appariva un messaggio con scritto "forse cercavi maternità", punto esclamativo. E da lì in realtà che è partito il nostro progetto. È un lavoro di gruppo, perché il gruppo era finanziato dalla Commissione Europea, transnazionale, e abbiamo lavorato sui padri. Per una ragione molto particolare, che è quella di riuscire in qualche modo ad aggredire, chiarire un equivoco di base. La questione dei padri così posta rispetto al lavoro è anche una questione di madri, cioè noi abbiamo ragionato di genitori. Le questioni della conciliazione sono di vita e lavoro, sono questioni dei genitori, di chi si assume i ruoli di cura, e non è più e non deve essere più solo la madre. Infatti ascoltavo prima le parole del ministro Carfagna, ancora oggi, e tutti i governi continuano a ripetere lo stesso errore, continuano a parlare di conciliazione delle madri, con ciò riproponendo uno stereotipo di base, che è quello della scelta privilegiata delle regole dedicate esclusivamente alle madri. E questo è un problema interessante. Noi ci siamo occupati in questo lavoro finanziato dalla Commissione Europea di ruoli, di moltiplicazione dei ruoli di padri e delle regole nazionali e comunitarie, e abbiamo visto che a fronte di una vivacissima modificazione dell'universo maschile, soprattutto con riguardo all'assunzione di ruoli differenziati di padri, non corrisponde un'esatta raffigurazione e configurazione da parte delle regole, che rimangono statiche, ferme, dobbiamo ricordarlo, ancora a quella sorta di paradigma che è manifestato nella Costituzione dell'essenzialità del ruolo familiare materno. Sì, ma quindi, io le faccio l'avvocato del diavolo, lei è avvocato, per cui io perderei. Lo sono comunque, anche, ma non esercito. Sì, no, ma perderò sicuramente. Molto spesso, però, ora noi stiamo facendo questa trasmissione perché ci rendiamo conto che c'è un problema di paternità e di povertà di questi padri separati che noi vogliamo denunciare. Però ci rendiamo conto che molto spesso la maggior parte delle donne lotta perché gli stessi padri non vogliono poi prendere questi bambini. Quando prendono questi bambini non sanno che cosa farci, vanno magari dalla propria madre, cioè dalla ex suocera della mamma separata, e cercano di farsi aiutare. Cioè, alle volte questo fatto che la maternità viene vista come centrale è forse perché ancora molti padri non sono poi così preparati, o no? Ma lei ha perfettamente ragione. Con riguardo, però, noi dobbiamo discutere di ruoli, di comportamenti e di regole. Le regole devono offrire l'opportunità a chi vuole assumersele le responsabilità di cura e devono consentirle. Dopodiché c'è una dimensione di fatto e una di diritto. Di fatto lei ha ragione, c'è una questione culturale molto, molto significativa, ma sta cambiando. Lo ha detto prima lo storico del diritto, è un processo di lungo corso, ma la moltiplicazione dei ruoli dei padri c'è, esiste. Esiste, è chiaro, come scriveva Concita Di Gregorio qualche mese fa su Repubblica, ancora il ruolo del padre drago, della costruzione, della violenza, di un padre anche dittatore, non scompare completamente, ma ci sono tanti padri che vogliono assumersi il carico di cura dei figli e non possono e non riescono. Dopodiché è chiaro che di fatto le situazioni non sono così chiare e definite, ma se una regola lo consente, io sono convinta che le ripercussioni positive ci siano. Ci sono alcune proposte che vedono e hanno visto, soprattutto in alcuni paesi d'Europa, rendere il congedo di paternità obbligatorio. Da noi ragioniamo sul fatto che un congedo di paternità per il padre esclusivo diritto proprio non esiste. Esiste il congedo di maternità, esiste un congedo di paternità derivato, cioè se la moglie muore gravemente inferma lo può utilizzare il padre, ed esiste un congedo parentale. E qui arrivano le questioni economiche, che sono quelle che noi lavoristi poi in realtà ci troviamo sempre ad analizzare. Perché? Perché i congedi oggi non sono retribuiti in misura sufficiente. Si parla di assenze garantite al 30% della retribuzione, e qui torna che sono le madri che hanno i redditi più bassi e quindi utilizzano il congedo scegliendolo rispetto ai padri, perché i redditi sono più alti, e anzi nel momento in cui i figli nascono si ha bisogno di più denaro in famiglia e non certo di meno. Non si è mai avuto il coraggio di affrontare una questione, ad esempio, anche se in via sperimentale, di introdurre un congedo pienamente retribuito per i padri. Vediamo cosa può succedere. Tante proposte sono state fatte, sono finite nel cestino, e si ritorna però alla questione di base. Si costruiscono le regole solo ed esclusivamente per le madri, dopo le madri rimangono avvinghiate anche in queste regole, come una sorta di effetto boomerang. Quindi ci sono due questioni che sono sovrapposte: una questione dalla valenza ideale, la questione della conciliazione è una questione dei genitori, e poi c'è una questione di lavoro che è molto pragmatica. Noi abbiamo costruito un gioco, una specie di gioco da tavola sul quale stiamo lavorando, che è una specie di battaglia navale, dove abbiamo visto e misurato la quantità di diritti che spettano alla coppia a seconda della tipologia di contratto di lavoro che si ha, e qui tornano i temi talmente attuali ad essere quasi impronunciabili: la precarietà, cioè i padri precari, le madri precarie, i non lavoratori, gli imprenditori, i piccoli imprenditori. Quindi la Corte Costituzionale più di un'occasione si è soffermata su queste questioni. Diciamo che alla moltiplicazione dei ruoli non corrispondono regole adeguate, e che comunque le regole potrebbero fare la loro parte, intanto sostenendo chi ha scelte e vuole compiere scelte differenziate. Insomma, uno studio molto molto importante mi sembra, proprio perché lei dice: garantiamo i diritti alle madri, ma cerchiamo anche di aprire la strada ai nuovi padri, a chi veramente, anche padre separato, il padre lo vuole fare. Francesca Zajcik, mi scusi, io sono negata per i cognomi difficili, sociologa, mi deve aiutare lei. Non si preoccupi, Zajcik, sociologa, docente di sociologia urbana per l'Università di Milano Bicocca, autrice di Nuovi padri, mutamenti della paternità in Italia e in Europa. E le chiedo subito: qual è la differenza tra Italia e Europa? La differenza è che il tempo che gli uomini dedicano in generale alle attività domestiche e anche alla gestione del rapporto con il figlio o con i figli ci trova nella parte bassa della classifica, e quindi questo non fa altro che ribadire una forte penalizzazione che ancora le donne italiane vivono nell'organizzazione del loro tempo, che significa, come sentivo anche richiamare prima, la possibilità di conciliare i tempi di vita e i tempi di lavoro. Quindi la collocazione ci penalizza, però è anche abbastanza interessante rilevare che i comportamenti sono sostanzialmente analoghi, e mi spiego. I comportamenti dei papà europei rispetto ai papà italiani. Ci dica questo, perché sappiamo che ci ha raggiunto Alessio Cardinale, portavoce nazionale dei papà separati, quindi vorrei che lo sentisse. Qual è la differenza in sostanza? No, in realtà fanno sostanzialmente le stesse cose, cioè il tempo maggiore che dedicano i papà continua ad essere quello di tipo ludico, cioè lo stare e dedicare il tempo libero al figlio o alla figlia per giocare, per portarli fuori, portarli al parco, mentre rimane ancora molto ridotta l'attività dei papà nelle cosiddette cosiddette attività routinarie, cioè cambiare il pannolino, dargli da mangiare, fargli fare i compiti, cioè tutte quelle attività che richiedono, come dire, un impegno quotidiano e che quindi in Italia, ma anche negli altri paesi europei, vede una presenza molto scarsa degli uomini. Quindi noi le donne italiane sono fortemente penalizzate perché gli uomini, ancora in una percentuale molto bassa, comunque si dedicano ai figli. In realtà il tipo di attività che poi viene esercitata con i figli da parte dei papà è sostanzialmente molto simile per l'Italia rispetto agli altri paesi europei. Se mi permetto anche rispetto alle cose che ho sentito, agli interventi che ho sentito prima, vorrei fare un accenno a una differenza molto rilevante che cominciamo a vedere rispetto alle generazioni, noi inevitabilmente ci riferiamo ai papà. Però i cambiamenti più interessanti, più importanti, quelli che ci consentono tutto sommato di cominciare a parlare di nuovi padri, avviene soprattutto nelle coppie di più giovani, ma non solo, nelle coppie che hanno alcune caratteristiche molto rilevanti di tipo socioculturale, e cioè che sono coppie con titolo di studio elevato, sia lui che lei, cioè quindi un livello, come dire, culturale elevato, che probabilmente favorisce il coinvolgimento dell'uomo rispetto ad un ruolo che la società ancora percepisce in realtà come un ruolo praticamente femminile, tanto che si evoca ancora in molti casi la figura orrenda del mammo. Allora, questo tipo di coppia riesce invece, come dire, anche a trovare un dialogo, una contrattazione, una negoziazione sulle attività da svolgere, oltre ad un desiderio pieno da parte dell'uomo di esserci e di partecipare alla genitorialità, cioè quindi al ruolo genitoriale. Ma un altro elemento importante è che queste coppie vivono soprattutto al nord e soprattutto nelle grandi città. Insomma, la interrompo perché dobbiamo dare la linea alla regia, è sempre lo stesso problema, ovviamente ci deve essere un elevato livello culturale e anche economico. La quota rosa. E torniamo ancora a parlare di papà separati, perché questa puntata è dedicata a loro. Ricordiamo che noi siamo sempre e comunque dalla parte delle madri separate, però c'è un allarme sociale e noi lo vogliamo denunciare. Ne abbiamo parlato con Rocco Girlanda del PDL e Maria Luisa Agnecchi del PD, che poi sentiremo tra pochissimo, ma vogliamo subito parlare con Alessio Cardinale, portavoce nazionale dei papà separati. Prima di tutto, perché lei a un certo punto ha fondato un'associazione? Che cosa è successo nella sua vita? Si è separato, ovviamente. Naturalmente sì. Mi sembra. Ma non l'ho fondata io. L'Associazione Nazionale Papà Separati è stata fondata da altre due persone, il dottor Cerdiello in particolare di Napoli, che l'ha fondata 10 anni fa, io sono arrivato solamente 3 anni fa. Ecco, lei perché a un certo punto ha sentito il bisogno di riconoscersi in un'associazione? Vedeva negati i suoi diritti? Naturalmente sì, è una realtà conclamata il fatto che in Italia, purtroppo per un fatto prettamente culturale, i papà siano nettamente sfavoriti. Questa resistenza culturale, fra l'altro, la vediamo quotidianamente nelle difficoltà che gli operatori della giustizia incontrano nell'applicare la legge sull'affidamento condiviso. Io però volevo dire intanto una cosa: anche noi siamo dalla parte delle mamme separate e non lo dico per né a mo' di battuta né peraltro. In realtà l'allarme sociale che c'è in questo momento riguarda tantissime mamme separate che vivono due ordini di problemi. Il primo è quello del papà che si assenta una volta separato, ma si assentava probabilmente anche prima in costanza di patrimonio, si assenta durante la separazione e improvvisamente sparisce o fisicamente o sia fisicamente che simbolicamente, nel senso che non partecipa. O economicamente. Anche economicamente, come no? C'è un fenomeno che è una vera e propria piaga sociale, quella del cosiddetto papà assente. Si avvicina anche negli ultimi anni una figura non proprio di mamma assente con le stesse caratteristiche del papà, ma a causa di motivi di lavoro e anche di carriera in cui finalmente le donne stanno faticosamente facendo ingresso. Abbiamo anche qualche piccolo fenomeno di mamme non che spariscano, ma che comunque dedicano alla cura dei figli meno tempo di quanto non si facesse prima. Quindi noi siamo a favore delle mamme, in realtà, primo perché il 40% dei nostri iscritti, stiamo parlando di circa 12.000 persone, il totale dei nostri iscritti attivisti, sono donne che vivono o la lontananza, l'immediata sparizione del papà, come dicevamo prima, dell'ex marito e i figli del papà, o vivono una condizione tremenda che viene causata purtroppo dai tribunali della nostra Repubblica. Ci sono mamme a cui oggi vengono tolti i bambini, soprattutto purtroppo a causa dell'operato del Tribunale dei minorenni, mamme a cui vengono tolti i bambini senza motivazione alcuna, senza motivazione plausibile, soltanto perché si è litigiosi, perché si è conflittuali, perché i bambini avrebbero, lo dico tra virgolette, sviluppato disagi psichici che necessitano di una cura particolare. E questo fatto lo voglio denunciare, perché noi abbiamo in questo momento sotto tutela tantissime mamme che sono costrette, come i papà nella maggioranza dei casi, a vedere i figli addirittura in ambiente protetto, di fronte, in presenza di assistenti sociali. E questa è una cosa tremenda, così come è tremenda per i papà. Ecco, invece per i papà, per i papà lei che cosa denuncia? I papà io denuncio, più che denuncio, esorto la magistratura a fare un lavoro con maggiore sensibilità, perché è tutto nelle mani della magistratura. Abbiamo tutte le risorse in Italia, fra assistenti sociali, mediatori familiari, psicoterapeuti, psicologi, per poter coadiuvare il lavoro del magistrato nel giusto modo. Siccome il problema dell'applicazione della legge sull'affidamento condiviso riverbera anche sulle donne, sulle mamme, perché quando una cosa non funziona bene per tutti e non solo per una parte, allora a quel punto la cosa diventa grave, l'allarme sociale si ingigantisce e lo testimonia il fatto che tantissime mamme vengono da noi, papà separati, che poi sono papà separati dai figli, non certo dalle mogli, dalle ex mogli, vengono da noi per chiedere tutela, perché non hanno tutela e noi per fortuna riusciamo a dargliela. Noi fra l'altro negli ultimi mesi abbiamo costituito un cartello di 12 associazioni nazionali che si chiama Adiantum, che vuol dire associazione di associazioni nazionali per la tutela dei minori, a cui fanno parte anche le associazioni di mamme separate. Quindi insomma la vecchia dicotomia madre separata e padre separato, la guerra dei Rosis sta per finire. Assolutamente, noi siamo contro lo scontro di genere, mi scusi il gioco di parole. Contro lo scontro di genere, ci piace. Sì, Io la interrompo, signor Cardinale, perché vorrei un attimo capire se siamo in chiusura, l'onorevole Rocco Girlanda della PDL e l'onorevole Maria Luisa Agnecchi del PD sono magari favorevoli a incontrarla e a parlare, a discutere di quelle che sono le istanze dei padri separati. Onorevole Rocco Girlanda. Sì, dunque io credo, qualche brevissima considerazione per concludere, che dovremmo passare alla situazione 2.0 del problema, ossia affrontarlo in un nuovo modo e con una nuova ottica. Mi riferisco in particolare al fatto che siamo pronti, credo la società sia matura per ragionare di diritti e doveri dei papà e delle mamme indipendentemente dal sesso di appartenenza, cioè una vera pari opportunità, perché ritengo che oggi il dover mettere al mondo dei figli, passare alla separazione eccetera, è una cosa che uno si sceglie da solo, la fa da solo, per carità, per tutte le problematiche connesse agli eventi della vita, magari alla facilità con cui talvolta si affronta un percorso molto molto diverso da quello che poi è di arrivo. Quindi per carità, parliamone, ma io sono convinto assolutamente che la società sia pronta per tutelare oggi papà e mamme, se si tratta di persone normali e nella normalità ci sta tutto e ci sta niente, cioè disposte a affrontare una separazione per scelta veramente ragionata, ma soprattutto mettendo i bambini, i figli al centro del mondo. Ovviamente sono prontissimo a portare tutte le mie esperienze e la possibilità politica per fare un ragionamento che coinvolga tutti, ma che sia veramente indirizzato a arrivare a questa nuova forma di consapevolezza. Onorevole Maria Luisa Agnecchi, lei che insomma aiuta i padri separati a Bolzano, c'è molto lavoro da fare? Assolutamente sì, ci tengo anche a dire che a tutti i componenti del PD della Commissione Lavoro io ho regalato il libro di Laura Calafà, proprio perché condivido assolutamente il fatto che i padri separati oltretutto vanno aiutati, soprattutto se hanno fatto i padri prima, e quindi se il concetto di conciliazione famiglia e lavoro era un problema condiviso e quindi era una scelta di paternità e maternità condivisa. E anche l'audizione di Mara Carfagna, alla quale avete fatto riferimento prima, era un'audizione della Commissione Lavoro e della Commissione Prima congiunta, proprio perché i due argomenti sono fondamentali in termini di quotidianità. Il nostro tempo è scaduto, onorevole Agnecchi. Io vorrei un attimo però dire che il sito online della ricerca contro il cancro al seno è in difficoltà, non ci sono abbastanza persone che accedono al sito e quindi non ci sono abbastanza sponsor che possono permettere una mammografia gratis alle donne. Ricordiamo che il sito è www.thebreastcancersite.com. Ringrazio Valerio Rocchetti in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere alla quotarosa@radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.